U-Zone, incontro con gli europarlamentari. Questo è il nuovo appuntamento del lunedì e il giovedì con l'Europa, si chiama U-Zone, si scrive EU-Zone, si dice U-Zone, anche un gioco di parole nel senso voi e l'Europa, perché vuole essere un punto d'incontro tra ascoltatori e europarlamentari, una nuova rubrica che propone un dialogo tra elettori e i loro rappresentanti, ogni volta ne viene presentato uno di questi europarlamentari. Sul sito di Radio 24, se volete, ci sono tutti i contatti elettronici per scrivere e conoscere meglio il lavoro dei nostri rappresentanti all'Europarlamento. Nome? Sergio Cofferati. Età? 67 anni, ancora per poche ore. Nato a? Sesto ed Uniti, in provincia di Cremona. Eletto in? Nella circoscrizione nord-ovest. Con quanti voti? Nella seconda elezione 120.000 preferenze. Partito politico? Oggi sono indipendente. Segni particolari? Nessuno, mi pare. Quante lingue parla? Oltre all'italiano, il francese. Da quanti anni è in Europa? Questa è la seconda legislatura, dunque sono 5 anni della prima più quasi 2 anni della seconda. Competenze europee in 10 parole. Lavoro, economia, mercato interno e di normative giuridiche. Ilva, che fare? C'è bisogno, credo, di introdurre per garantire la retribuzione una quota robusta di lavori socialmente utili, come il governo si era impegnato a fare. E poi bisogna trovare una soluzione concordata con l'Unione Europea. La CGIL raccoglie firme per cambiare il Jobs Act. Ce la farà? Spero di sì. Credo che la CGIL si sia data l'obiettivo soprattutto di stimolare il Parlamento a scrivere un aggiornamento di uno strumento fondamentale come è stato e com'è nella nostra storia, qual è lo Statuto dei lavoratori. Le piace l'Europa? Sì, è un luogo dove sei costretto a guardare alto e ti apre la mente. Ha già individuato il suo erede? No, il tempo della legislatura è ancora lungo. Migranti, l'Europa sta giocando bene o male? Malissimo, malissimo, per ragioni che riguardano in primo luogo il ruolo delle istituzioni europee. La sua battaglia vinta? Da soli non si vince mai nulla, si contribuisce ad ottenere dei risultati. Le sue 5 priorità se fosse presidente dell'Europarlamento? La scrittura di un nuovo trattato che prevede il trasferimento di sovranità dagli Stati membri verso le istituzioni europee. E dentro queste i temi che sono oggetto della discussione di tutti i giorni. Le piace Martin Schulz? È una persona di indubbia capacità, sa fare bene il ruolo che gli è stato assegnato. Si ricandida alle prossime elezioni europee? Da qui allora c'è uno spazio enorme. Vorrebbe tornare a fare politica in Italia? Ma io credo di non aver mai smesso. Perché è uscito dal PD? Perché dopo delle primarie che sono state inquinate ho chiesto al PD di discuterne, mi è stata negata questa possibilità. Pentito? No. Che ne ha fatto della tessera? La conservo, io sono uno dei 50 che ha contribuito a fondare quel partito. Ci dice una cosa di sinistra? Ma è l'uso concreto di alcune parole che però devono essere riempite di contenuti. Penso appunto a diritti, a solidarietà. E una di destra? Una di destra è la negazione della solidarietà. Un voto a Renzi da 1 a 10. Il mio non può essere un giudizio positivo. L'Italia come vede l'Europa? L'Italia si disinteressa molto dell'Europa. L'Europa come vede l'Italia? Ci guardano con curiosità e a volte con fastidio. In Europa è obbediente o disobbediente? Molto disobbediente. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.